24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 16 minuti e 30 secondi di venerdì 5 giugno, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti alla seconda alla terza parte di 24 mattina, è proprio venerdì. Buongiorno Maria Latella, ciao. Buongiorno, buongiorno Simone, e siccome è venerdì, cominciamo con una notizia che da un lato è preoccupante, dall'altro forse ci fa sorridere se non la prendiamo troppo sul serio. Ed è sulla prima pagina del Daily Telegraph. Secondo uno studio che il quotidiano inglese cita, i più a rischio, comunque seriamente a rischio di prendere i sintomi, di assumere i sintomi del Covid-19, sarebbero, pensa te, gli uomini calvi. Ah. È un studio della Brown University, anticipato appunto dal Daily Telegraph, e secondo il quale la calvizie è, cito testualmente il professor Carlos Wembier della Brown University, la calvizie è un perfetto elemento che predice la eventuale severità della possibilità di ammalarsi di Covid-19. Dio mio. I nostri ascoltatori che hanno amici sono senza capelli in questo momento, non si può, stanno toccando non si possono diffondere queste cose, bisogna vedere se c'è correlazione o causalità, come sempre. No, queste cose tendiamo a non fare attenzione. Però lo mette addirittura in prima pagina di taglio centrale. Chissà come va per me, che li sto perdendo da un po', nel senso sono i capelli, no, ce l'ho ancora tutti. Hai però una capigliatura. Hai una capigliatura assai fluente. Fanno notare gli ascoltatori, giustamente dicono, e infatti Boris Johnson, invece no, perché Boris Johnson invece ne è pieno di capelli, insomma. C'ha un sacco di capelli. Ma l'altra cosa che volevo segnalare, sempre per la rubrica Tutto il mondo è paese, che cosa ha intenzione di fare Macron? Indovinate un po', anche lui una bella convocazione di tutte le parti sociali, economisti, intellettuali, eccetera, per decidere il piano di rilancio della Francia. Quindi anche Macron si avvia stati generali a consultazione. Non li chiamano proprio stati generali, ma insomma ci siamo capiti. La rubrica Tutto il mondo è paese mi sa che andrà avanti ancora per un po'. Direi proprio di sì. Allora, di cosa ci occupiamo questa mattina? Di un settore, che poi è un settore che riguarda le nostre vite, che è rimasto fermo praticamente, ed è il settore della giustizia. Quest'oggi ci siamo occupati nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, di tutta la vicenda Palamara, i magistrati, l'ANM, il CSM, le correnti, le nomine nelle procure e via dicendo. Invece oggi ci occupiamo proprio della giustizia, di quello che si vive quotidianamente nei tribunali, che vivono le persone che magari hanno una causa civile o una causa penale, gli avvocati, i magistrati, a fronte di un settore che di fatto si è congelato con l'inizio dell'emergenza Covid e ha ripreso solo in piccolissima parte. Iniziamo con Maria Masi, che è Presidente del Consiglio Nazionale Forense ed è un avvocato civilista. Masi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. E Francesco Mannino, che è presidente del Tribunale di Catania. Buongiorno Mannino, eccoci. Buongiorno, bentrovati. Maria, prego. Buongiorno. Io vorrei proprio cominciare con il presidente del Consiglio Nazionale Forense, la dottoressa Masi. E mi pare che proprio dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Vinicio Nardo, sia venuto un allarme sostanziale. Ha detto che mentre il paese reale torna a vivere, e invece sul fronte della giustizia tutto rimane chiuso, e l'Ordine degli Avvocati ha chiesto di riprendere a celebrare i procedimenti. Parla di situazioni in cui gli avvocati sono invitati a lasciare i decreti fuori alla porta in una scatola di plastica. È così? Siamo messi così, dottoressa Masi? Sì, in realtà la preoccupazione dell'avvocatura tutta, quindi quanto denunciato dal presidente dell'Ordine di Milano, è in realtà quello che stiamo rappresentando al ministro e quindi a tutti gli altri componenti, diciamo, del settore ormai da settimane, perché questa auspicata seconda fase in realtà non è mai partita, non è mai partita se non in maniera disomogenea su tutto il territorio, e è assolutamente ingiustificabile, diciamo, questo blocco, perché ci sono tutte, ci sarebbero tutte le condizioni per una ripresa, ovviamente una ripresa organizzata, ma anche per questo è possibile, è una cosa possibile, può essere assolutamente assolta nella maggior parte dei tribunali. Quindi abbiamo più volte anche contribuito, diciamo, in maniera pratica a suggerire delle soluzioni perché questo possa avvenire. In particolare il Consiglio nazionale sin dalla prima ora aveva manifestato la disponibilità anche ad elaborare quelle famose linee guida che avrebbero dovuto informare poi i protocolli d'intesa finalizzati proprio e utili alla ripresa concreta della seconda fase, in questa seconda fase. In realtà queste linee guida poi, benché siano, diciamo, evocate o richiamate nella maggior parte dei protocolli poi realizzati, di fatto sembrano non essere applicati, perché lo spirito era proprio quello di tentare di, nel rispetto delle declinazioni, delle specificità di alcuni territori particolarmente attinti dall'emergenza sanitaria o da esigenze di natura logistica, di organizzazione di uffici, di personale amministrativo piuttosto che carico di ruolo di magistrati, in realtà poi si è di fatto trasformato invece in una pluralità di protocolli che allo Stato hanno determinato, diciamo, ulteriore confusione. Di fatto il blocco. Mi pare che si parli, ma non so se ha un dettaglio sui numeri, di un 15% di udienze celebrate nel civile rispetto a quelle che si sarebbero dovute celebrare e un 25% nel penale. Il tutto si somma, cioè queste udienze che sono saltate si sommano all'arretrato che già il sistema giudiziario italiano ha e rischia di diventare un disastro. Rischia di implodere in autunno, sì, esattamente, anche perché l'avvocatura si era anche sforzata, assecondando la richiesta, di modalità diverse, evidenziando alcune problematiche relative soprattutto ad alcuni tipi di procedimenti, per esempio quelli penali o anche altri nell'ambito del diritto civile, che richiedono e comunque esigono, diciamo, una trattazione in presenza. Abbiamo manifestato assoluta disponibilità anche ad una trattazione alternativa allo Stato, che di fatto però anche in termini, in quelle percentuali che lei indicava, sono dati veramente sensibilmente bassi. Cioè la didattica a distanza da voi non ha funzionato. La didattica a distanza da voi non ha funzionato. Non abbiamo elementi sufficienti per poter manifestare, diciamo, o confortare, diciamo, la bontà anche di queste modalità. C'è sicuramente proprio un su questo vorrei chiedere una cosa. Sì. Però la vorrei chiedere al dottor Mannino, perché ho letto sul Sole 24 Ore che lei ha consigliato prudenza sui videocollegamenti, perché dice: se gli avvocati poi dovessero sollevare eccezioni fondate, i magistrati dovranno valutare con attenzione se proseguire. Ora, una delle accuse, no, rivolta sempre al mondo della giustizia italiana è che i processi sono lentissimi, anche perché gli avvocati hanno un certo interesse a mantenerli lunghi, perché le parcelle corrono di più. Questa può essere una malignità, ma è una malignità che sento citare da quando facevo, appunto, frequentavo la facoltà di giurisprudenza a Genova. Le chiedo quanto la questione videocollegamenti può mettere a rischio un processo, e se è ancora vero che le lungaggini fanno comodo anche agli avvocati. Ma quanto al primo aspetto, non è un'ipotesi di scuola, la realtà, perché in molti processi qua a Catania è stata percepita l'irritualità di certe modalità di collegamenti video, che non fossero le videoconferenze che sono state ormai regolamentate da tempo e su quella cui legittimità non c'è assolutamente dubbio. Tenga conto che noi scontiamo, parlo per Catania, un'assoluta carenza di aule con videocollegamenti, ne abbiamo solamente 3 su 13 aule, quindi lei si immagini come bisogna fare la corsa alle prenotazioni per poter sopperire in modo regolare, legittimamente ormai acquisito, i videocollegamenti, i processi con videocollegamenti. Quindi mi rendo conto che ci sono tanti tentativi per sopperire a questa carenza di aule collegate con videocollegamenti, fra cui quelli collegamenti video con software che si chiama Teams, sulla cui però legittimità proprio gli avvocati torto o a ragione hanno sollevato delle eccezioni, e quindi il mio invito ai colleghi è: se avete proprio il dubbio che ci sia un'eccezione, non rischiate il processo, perché è inutile andare avanti e vederselo poi dichiarare una nullità in a corte d'appello o in Cassazione. Quindi esiste il fondato problema, diciamo che è una modalità di collegamento nuova su cui ci si sta sperimentando da pochissimo, non c'è una giurisprudenza che abbia validato o meno determinate modalità di collegamento. Per quanto riguarda il secondo aspetto, viva Dio, nel penale è abbastanza semplice da dire che, salvo che non vi siano sospensioni dei termini, la prescrizione poi arriva e copre tutto, quindi non è una questione di guadagnare di più, guadagnare di meno con la lungaggine del processo. È una questione di processo che poi si va a reato, che poi si va a prescrivere, se non, il processo non si completa in un certo termine. Questo è fisiologico, sta nel rapporto, voglio dire, processuale, ci sono dei termini, ci sono dei rispetti, si prescrive. L'avvocato fa il suo mestiere e chiaramente se può arrivare ad una prescrizione per evitare una condanna, fa il suo mestiere, c'è poco da dire. Senta Mannino, è molto nelle vostre mani a questo punto. Intanto segnalo agli ascoltatori che se vogliono intervenire con le loro voci, vogliono dirci la loro, se hanno delle esperienze personali, no? In questi giorni magari si aspettavano di celebrare, di avere un'udienza e questa udienza è saltata. Siete avvocati, magistrati, vi occupate di giustizia. Beh, l'800 24 00 24, il 349 238 6666, per sms, messaggi su WhatsApp, a vostra disposizione, per messaggi WhatsApp anche audio, 800 24 00 24, per intervenire in diretta. Mannino, molto è nelle vostre mani a questo punto, nel senso che mi sembra di capire che un po' di tema di riorganizzazione degli uffici, riorganizzazione delle udienze, gestione dei tribunali in questa fase sia molto affidato a voi. Quanto effettivamente riuscite a fare? Ma si è arrivato a una sorta di federalismo, perché ogni tribunale, anzi nell'ambito della Corte d'Appello, dove le Corte d'Appello hanno esercitato legittimamente una funzione di coordinamento fra Corte d'Appello e tribunali, si è cercato di adattare la ripresa sia alle condizioni della pandemia in atto sul territorio, sia soprattutto alle condizioni logistiche e di personale. Io ripeto, posso parlare della mia esperienza. Io in questo momento, in questi mesi, ho accumulato sia la funzione di presidente del tribunale che di dirigente amministrativo, quindi avendo la responsabilità sia dell'attività giudiziaria che dell'attività amministrativa del personale. E mi sono preoccupato, avendo la responsabilità da capo dell'ufficio e da datore di lavoro di circa 500 persone, non di una o di due o di tre, ma di 500 persone, di garantire che vi fossero le condizioni sanitarie che la legge richiedeva per poter andare avanti. Ho fatto fare dal medico competente, dal responsabile della sicurezza, una verifica e ho fatto mappare stanza per stanza quali erano le capienze massime rispettando le distanze di legge. Diciamo che con questa mappatura, per rispettare la distanza, posso garantire il 65-70% del personale, proprio perché noi abbiamo una carenza di locali che è stata proprio verificata di recente in sede di ispezione. Abbiamo carenze di organico, abbiamo carenze di spazi, quindi navighiamo e lavoriamo con circa il 65-70% di personale, che è la capienza massima che possiamo occupare. A tutto questo poi si aggiunga che il Ministro della Funzione Pubblica ha indicato lo smart working, il lavoro agile da casa, come, diciamo, l'attività principale lavorativa anche negli uffici giudiziari, ma per non poter collegarsi da casa con i nostri sistemi informatici per questione di sicurezza, per tantissimi programmi che gestiscono il civile o gestiscono il penale, è evidente, diciamo, che il lavoro agile non ha dato assolutamente un aiuto valido. Per cui Quindi bisogna tornare, lo smart working nel mondo della giustizia non può essere applicato, è una questione complessa, perché noi abbiamo dei sistemi informatici anche di sicurezza e di tutela dei cittadini, no? Esatto, sicurezza dei dati, sicurezza dei processi, sicurezza a evitare attacchi. Il Ministero della Giustizia credo che in questi ultimi anni abbia subito ben due forti attacchi hacker, e quindi non possiamo consentire che dall'esterno si acceda, diciamo, con facilità. Ma è un problema che si potrebbe abbastanza risolvere, vi sono attività molto delicate, tanto quanto quella del Ministero della Giustizia, in cui si è riuscito a trovare la quadra per poter consentire il lavoro agile. Però, ripeto, allo Stato questa è la situazione. Per cui abbiamo dovuto dimensionare la nostra attività giudiziaria, e non in poco, diciamo, come poca quantità, a quella che è il supporto che le cancellerie possono dare, perché poi tutto ruota attraverso il polmone delle cancellerie. Se non vengono predisposti gli atti, se non vengono messi in esecuzione, non si può fare un processo e non si può poi andare ad eseguire il provvedimento del magistrato. Certamente. Quindi questa è un po' la situazione. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per la tua impresa. Mattino. Un ascoltatore ci fa notare, dice, certo è strano, nelle banche, poi magari rigiriamo la domanda a Mannino, le banche lavorano quasi tutte da casa in smart working, a parlare di un settore che chiaramente tratta dei dati sensibili e il Ministero della Giustizia non ha contromisure adeguate. Non è male il discorso, però vorrei sentire qualche ascoltatore in voce. Alfredo da Roma, che è un avvocato, buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare un attimo dei cosiddetti rinvii fatti per su istanza degli avvocati. Il 50% dei rinvii in udienza penale avviene per difetto di notifiche da parte della cancelleria. Quindi c'è un problema. È chiaro che non si può pretendere che l'avvocato non eccepisca la nullità, altrimenti non farebbe il proprio lavoro, la propria professione. Però se la cancelleria facesse gli adempimenti rituali, sicuramente il 50% dei processi non subirebbe l'invio. Alcun rinvio, dice lei, Alfredo. Avvocato, le posso chiedere una cosa? Lei sa bene che spesso si tratta di lungaggini che dipendono sì dalle cancellerie, ma dipendono anche, per esempio, dalle notifiche degli atti, no? Per quanto riguarda gli atti. Gli atti penali poi devono essere comunicati fisicamente, c'è il carabiniere che bussa alla porta, come giornalisti lo sappiamo perché ne abbiamo ricevute decine, bussa alla porta e ti deve materialmente consegnare l'atto che per esempio ti dice che un processo inizierà a tale data. Lei, con la sua esperienza, e abbiamo qui poi il presidente del Tribunale di Catania, che soluzione vedrebbe? Perché a questo punto bisogna fare anche delle proposte, no? Sempre proposte praticabili, proposte però semplici. Maria, posso dirti una cosa? Scusami, noi siamo interessati ad Alfredo sicuramente, e però dato che ci stanno chiamando molti avvocati, io sinceramente anche le loro voci le sentirei, sì, tutti, come quella di Roberto da Milano. Sì. Roberto, buongiorno, prego, rapidamente, per favore. Sì, sarò, spero, brevissimo. Allora, io devo dire, per entrare su questo tema, devo dire che sarebbe una soluzione quella di adottare per esempio il domicilio digitale per tutti quanti, perché ormai la PEC è diventata uno strumento di lavoro, ma dovrebbe essere, diciamo così, adottata come strumento per far arrivare anche le notifiche, per cui capisco il collega che fa penale, io faccio prevalentemente civile, quindi ho altri problemi sotto questo aspetto, però volevo dire solo una cosa, che i rinvii vengono fatti, e io ne ho subiti tantissimi fino a ottobre, novembre, gennaio 2021, di cause civili, e a una mia espressa domanda a un magistrato di Milano, il Tribunale di Milano, ma possiamo fare un'udienza telematica da remoto? Mi ha risposto assolutamente no, non possiamo farla, per motivi organizzativi, perché i software non ci sono, perché mille motivi di carattere anche tecnico. Quindi quello che fanno le scuole, lezioni in, diciamo, da remoto e lavoro in smart working, non è possibile fare all'interno del settore giustizia. E questo per me è incomprensibile. Perché sentiamo, comunque sia, Roberto, è chiarissimo, chiarissimo. Sentiamo rapidamente anche Matteo da Mantova, che è un altro avvocato, e poi andiamo di nuovo da Mannino e Masi. Prego, prego Matteo da Mantova. Buongiorno, vorrei porre la questione di un paio di udienze che possono essere bypassate, come sta avvenendo adesso in tempo emergenziale. La prima è l'udienza di ammissione delle prove, parlo di ambito civile ovviamente. E solitamente cosa avviene? Si depositano le memorie con le richieste istruttorie, dopodiché si fissa un'udienza alla quale gli avvocati intervengono e il magistrato nella maggior parte dei casi si riserva. Orbene, ora è possibile depositare un atto in cui in sostanza si insiste nelle domande già effettuate e il magistrato provvede senza necessità di intervenire in udienza. L'altra udienza è quella di precisazione delle conclusioni, nella quale gli avvocati intervengono davanti al magistrato, si riportano le conclusioni già presentate in atti e il giudice trattiene la causa in decisione assegnando i termini. E quindi quello è quello che sta avvenendo adesso, due udienze che si bypassano e che si potrebbero continuare a bypassare, dice lei. E allora, questa è una proposta, effetti. Andiamo dai nostri ospiti. Chissà che ne pensa Mannino. Prego, Mannino. Io sono ottimista di natura e quello che ho detto sin dall'inizio di questa tragica vicenda pandemica, ho detto ai colleghi, al personale, dobbiamo fare in modo di trarre il meglio da questa esperienza. Se vi sono delle prassi che stiamo sperimentando che possono funzionare, pigliamo l'insegnamento e portiamole avanti anche in seguito. Una di queste è l'udienza cartolare. Mi trovo perfettamente d'accordo l'avvocato, credo, di Mantova. Vi sono delle udienze, le stesse che ha citato lui, in cui la presenza delle parti si limita poi a produrre materialmente davanti al giudice o inviare telematicamente al giudice quegli stessi atti che potrebbero essere, così come sono in questa fase, depositati senza materialmente la presenza, fisicamente la presenza dell'avvocato. Quindi su questo sono perfettamente d'accordo e auspico che questa modalità di deposito, di trattazione dell'udienza continui anche dopo l'effetto, dopo la, diciamo, la fine dell'emergenza della pandemia. E io ho dato le udienze che stiamo trattando in civile sono assolutamente, certamente tutte quelle cartolari che non richiedono la presenza dell'avvocato. Sulle altre due questioni, se mi permette un po' di intervenire anche subito. Molto rapidamente, Mannino. Le udienze telematiche civili, sì, è vero, però noi le stiamo limitando ai casi effettivamente più urgenti, perché mettere in piedi un collegamento telematico civile con i collegamenti video che non garantiscono o che hanno determinati tempi tecnici, non si possono trattare tutte le udienze in videocollegamento col civile. Lo stiamo facendo semplicemente per le cautelari urgenti, quelle che hanno necessità, ma non si può generalizzare tutte le udienze in questo modo. Sulle notifiche è un problema che riguarda non solo la pandemia, ma riguarda in generale le notifiche dei settori penali. Vorrei sentire l'avvocato Maria Masi brevemente, scusami, sì. Simone, perché invitiamo le nostre interlocutrici, e poi però non vorrei io da giornalista donna penalizzare un'altra donna. Che ne pensa di quello che abbiamo sentito dai nostri ascoltatori? Ho necessità di una breve replica rispetto alla trattazione cartolare, che effettivamente rappresenta allo Stato l'unico strumento che viene utilizzato per in quelle percentuali indicate, cioè essenzialmente questa modalità. Però se poi c'è una nota da fare, nonostante la trattazione scritta, che voglio precisare, non esclude la presenza dell'avvocato, è solo una modalità diversa, quindi non c'è ovviamente la contestualità e la presenza, ma è l'avvocato che elabora e quindi prepara le note scritte, perché altrimenti il messaggio anche per chi ci ascolta può essere fuorviante. Però poi mi chiedo perché molti di questi stessi procedimenti, una volta assolta la trattazione cartolare, vengano comunque rinviate d'ufficio ad un mese, due mesi o anche oltre, perché è quello che si sta verificando. Altra nota è che non tutte, anche per quelle udienze indicate e richiamate dal collega di Mantova, non per tutte, per alcuni procedimenti in materia di famiglia piuttosto che in materia di lavoro e altro, non si esaurisce, voglio dire, la trattazione scritta non esaurisce quell'oralità che a volte invece è necessaria anche in una richiesta di ammissione di prove. Una leggerissima replica sul rispetto allo smart working. L'avvocatura ritiene che più che investire risorse e energie per capire come superare il problema dei dati sensibili, una tornazione, una flessibilità e un rientro in presenza, ovviamente assolte le esigenze sanitarie, ma stiamo parlando di un periodo in cui, per fortuna, tra l'eccezione di 2-3 regioni, anche la questione dell'emergenza sanitaria legata al contagio si è, per fortuna, sensibilmente ridimensionata, in alcune regioni addirittura estinta allo Stato. Per cui quello che non comprende l'avvocatura è perché sia considerato impossibile allo Stato una ripresa e quindi anche un implementamento della presenza dei cancellieri in ufficio, che risolverebbe lei dice anche una ripresa fisica. Masi, un'ultima domanda con lei e poi andiamo a chiudere, perché poi abbiamo un ospite politico, si tratta tra l'altro di un uno che di giustizia si è occupato, sì, Andrea Orlando. Si possono fare più cose in digitale? Perché alla fine il tema molto semplice è questo: si possono fare più cose in digitale oppure no? Si possono fare più cose in digitale, tutto quello che assolve agli adempimenti e quindi agli aspetti sicuramente strumentali della nostra professione, e sicuramente probabilmente anche qualcosa che riguardi anche lo svolgimento dell'udienza, voglio dire con la specificità, come dicevo prima, di quelle che è la natura dei giudizi in corso. Però il problema è che in molti settori, faccio l'esempio della giustizia di prossimità perché anche quello è oggetto di grossa discussione in questi giorni, difetta proprio l'implementazione anche del processo telematico. Quindi magari da questa esperienza verificare quello, come giustamente sottolineava il presidente Mannino, quello che può essere migliorato per migliorare anche le nostre condizioni di operatori, voglio dire, del diritto all'interno dei tribunali, possa essere sicuramente assecondata, questo senz'altro. Grazie ad entrambi. Torneremo a parlarne perché buon vedo lavoro. Che si scaldano anche un po' di ascoltatori, molti avvocati naturalmente, persone che lavorano Siamo in procura che ci hanno, avvocati, che no, ci hanno chiamato e che sono in linea con noi e che non riusciamo a far sentire questa mattina. Grazie a Maria Masi, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Mannino, Presidente del Tribunale di Catania, per averci accompagnato in questo quadro di un settore che non è ripartito, quello della giustizia. Andrea Orlando, vice segretario del Partito Democratico, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei è stato ministro della giustizia, non possiamo che cominciare da qui, almeno una domanda su questo tema io gliela voglio fare. Per quello che le risulta, la possibilità di lavorare da remoto per tutti gli uffici giudiziari è qualcosa che mette a rischio la tutela dei cittadini o è un percorso che bisognerà assolutamente prendere in considerazione? No, bisogna prenderlo in considerazione. Già prima del Covid c'erano state ipotesi che guardavano ad alcuni passaggi delle udienze, sia civili che penali, che si possono svolgere in remoto. Bisogna stare attenti all'abuso di questo strumento, perché ci sono passaggi processuali nei quali invece la presenza dell'imputato è assolutamente fondamentale. Quindi, come dire, credo che sia assolutamente un passaggio inevitabile ed opportuno, ma va fatto con una giusta attenzione alle garanzie processuali, all'oralità, che nel nostro ordinamento è uno degli elementi, dopo la riforma del codice di procedura penale del 1989, è una delle, come dire, degli elementi caratterizzanti, e dobbiamo quindi fare in modo tale che non ci sia un utilizzo indiscriminato di questi strumenti, anche per fasi nelle quali l'oralità non significa soltanto che non si scrive, ma anche che ci si guarda in faccia, in qualche modo si percepiscono anche le reazioni del testimone piuttosto che dell'imputato in presenza. Io credo, diciamo, che ho letto le polemiche sono sviluppate anche durante il Covid, questo concetto talvolta è portato ad un estremo. Ci sono passaggi anche del processo penale, che è quello più delicato, nel quale oggettivamente, come dire, ci sono elementi di carattere routinario, e chiedere di essere tutti lì contemporaneamente, in presenza, anche quando non è strettamente necessario, è un modo, a mio avviso, non di tutelare delle garanzie, ma è un modo, come dire, di prendere un po' tempo nello svolgimento del processo. E questo già pre-Covid, Orlando, diciamocelo, insomma. Era già pre-Covid. È uno dei temi. Io penso sempre questo, sempre stando alle polemiche che ci sono state in questi mesi, che gli Stati Uniti, che sono, diciamo, il paese dal quale abbiamo sostanzialmente mutuato, devo dire molto male, il sistema processuale penale, è un paese che utilizza questi strumenti, eppure, diciamo, è anche quello che ha colpito il criterio della oralità. Quindi le due cose non sono in contraddizione, non sono incompatibili. Non bisogna farci rientrare, ecco. Se non si forza non ci entrano, e se c'è buon senso si possono utilizzare nuove tecnologie per fare un salto in avanti nel funzionamento dei processi. Ricordiamo sempre, io ci tengo sempre molto, che noi siamo stati il primo paese in Europa a informatizzare completamente il processo civile. Questo significa che non necessariamente dobbiamo essere sempre quelli che inseguono gli altri. Orlando, ci faccia venire alle questioni politiche, iniziando probabilmente da quelle economiche, no? Da quest'idea lanciata dal Presidente del Consiglio Conte degli Stati Generali dell'Economia. Si denuncia da più parti, anche a guardare all'esempio tedesco, no? Del quale trova molte tracce oggi, per esempio, sul Sole 24 Ore, l'idea che insomma tutto stia un po' rallentando, che sia un modo quasi per prendere tempo, l'idea che il governo non sappia esattamente come muoversi e quindi no, riunisca tutti quanti, perché l'azione finora è stata un po' lenta e rischia di continuare ad essere lenta, tra task force, stati generali e via dicendo. Che dice? Ma diciamo che non va mai bene, nel senso che se il governo mette di soggetti politici e sociali di fronte al fatto compiuto, diciamo fa da sé e non tiene conto delle istanze. Se propone un momento di confronto più complessivo e più strutturato, allora vuol prendere tempo. Io non confonderei gli stati generali con le task force. Le task force erano strumenti che si mettevano al servizio del governo per diciamo elaborare piani, ma sempre nell'ambito di una discrezionalità esercitata dal governo stesso. Gli stati generali, se ho capito bene, sono un momento nel quale si chiama tutto il paese a riflettere su alcune questioni di carattere strategico, e io penso che ne abbiamo assolutamente bisogno, perché dobbiamo decidere una cosa molto semplice: se da questa crisi semplice, diciamo nel porre la domanda, non nel dare la risposta, se da questa crisi noi usciamo riprendendo i caratteri che segnavano la nostra economia e il nostro sistema prima del Covid, o assecondiamo alcune tendenze che si sono manifestate col Covid anche positive e contrastiamo quelle negative e proviamo a cambiare questo assetto. E questa è una domanda che non possiamo non porci. È cresciuto lo smart working, lo usiamo questo salto di qualità o ritorniamo tutti come prima in ufficio a fare le cose che si facevano prima? E i trasporti si sono differenziati, e teniamo conto di questo oppure no? Ci sarà città che stenderanno a respirare, cioè ad andare più verso la periferia, verso la campagna, anche nella locazione di servizi, e questo è un fenomeno che va assecondato, che va contrastato. Lo Stato, almeno è colto perché ho posto questa questione in queste settimane, lo Stato sarà chiamato a un ruolo più importante. Lo usiamo come pantalone o lo usiamo come punto di riferimento di alcuni processi, soprattutto quando si utilizzano i soldi dei contribuenti? Ecco, queste sono tutte domande alle quali va data una risposta. Ce n'è un'altra? Ce n'è un'altra, prego, Andrea Orlando. Sicuramente ce ne sono molte altre. No, ce n'è una e gliela pongo molto, molto direttamente. Ovviamente gestire questa nuova fase e anche tutti i soldi che arriveranno dall'Europa, gestirla bene, ma comunque gestirla, è una cosa che ingolosisce molti. Tutti i giorni i quotidiani danno conto di manovre che potrebbero portare a un nuovo governo. In particolare si dice che proprio il ministro degli esteri Luigi Di Maio, quindi diciamo l'esponente di punta del Movimento 5 Stelle che ha scelto Conte, bene, sia in freddo col Conte medesimo. Se ci fosse un nuovo governo, il PD potrebbe accettare una presidenza del Consiglio guidata da Luigi Di Maio? Ma a me pare che si tratti un po' di chiacchiere, diciamo, per riempire gli spazi di tempo libero, ecco, nel senso che la fase non mi pare quella che consigli manovre che ricordano un po' l'epoca, diciamo, per chi è più grande del pentapartito, insomma. Io credo che siamo in una fase nella quale il problema è far funzionare questa formula che con difficoltà è stata costruita, non di mettersi a fare, diciamo, io credo che anche Di Maio abbia questo in testa. Credo che siamo che oggi si pensava a governi di unità nazionale organici, diciamo, ha avuto una risposta dalla piazza del 2 giugno. Chi pensa a manovre interne all'attuale maggioranza, tutte giocate sugli assetti degli organi grandi, secondo me sottovaluta la portata della sfida che abbiamo di fronte e i temi che dobbiamo veramente affrontare. La questione la vorrei portare su una questione interessante che ha a che fare con l'occupazione. I dati dell'altro giorno li abbiamo visti tutti, Orlando, sono dei dati ovviamente molto pesanti, è molto pesante il numero di inattivi. Oggi il consigliere economico del ministro Gualtieri, Marco Leonardi, che lei conosce, che è un economista, in un colloquio con Claudio Tucci sul Sole 24 Ore fa questa proposta, dice: noi dobbiamo rilanciare l'occupazione il più possibile, e quindi uno degli elementi deve essere meno vincoli sui contratti a termine, rimuovere le causali almeno fino al 30 agosto nell'ambito del decreto rilancio. È una proposta che siete disposti ad appoggiare? Secondo me si parte francamente dal punto sbagliato, cioè ancora dal tema della disciplina, poi non escludo che ci possano essere anche interventi su questo, ma ancora dalla disciplina giuslavoristica. Io credo che noi abbiamo piuttosto il problema fondamentale in questo momento di affrontare la questione della formazione professionale, delle politiche attive e passive del lavoro, perché siamo in una situazione nella quale noi saremmo chiamati a rivedere completamente, diciamo, l'allocazione della forza lavoro, delle competenze. E questo sforzo non è oggi sostenuto da strumenti adeguati, siamo rimasti a metà strada tra il vecchio sistema, diciamo, pre-AMPAL e quello che dovrebbe funzionare dal combinato disposto tra AMPAL e reddito di cittadinanza, ma che abbiamo visto non funziona assolutamente. Se qualcuno ne avesse ancora... Però Orlando, ogni mese scadono 300.000 contratti a termine, Mi faccia dire una cosa, perché mi interrompo su un punto che è importante, scusi. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, è sufficiente leggere l'intervista di ieri del presidente dell'AMPAL, che è francamente sconcertante. Quindi noi, secondo me, dobbiamo partire da lì, cioè noi dobbiamo partire da una revisione. Il reddito di cittadinanza è servito a evitare probabilmente anche scontri sociali in questa pandemia, ma non è servito a rimettere nel mondo del lavoro persone che erano state escluse. E da questo punto di vista io credo che questo sia il punto di partenza della riflessione. No, purtroppo... Poi non escludo il resto, ecco, ma questo io credo. Senta, Orlando, c'è un dubbio che aleggia su tutto. I soldi che arriveranno dall'Europa serviranno per consenso elettorale, come abbiamo fatto in Italia negli ultimi 20 anni, con bonus, mance, oppure serviranno per gestire il futuro? Oggi il vicepresidente di Confindustria, Pasini, in un'intervista al Corriere citava giustamente la scuola come una delle cose dalle quali ripartire, ma io non la vedo, lei l'ha citata ora, ma io non la vedo molto citata. Il rischio è che i soldi di dritto o di rovescio vadano a mille bonus che non fanno ripartire il paese. E che la sigla ci porta via in 10 secondi, Orlando, in 10 secondi, via, se ma ce la fa. Quello è importante dire prima, gli stati generali, piano per il paese, sono il modo di dichiarare preventivamente quali sono gli obiettivi. Cosa fai con quei soldi, e quindi non disperderli in mille rivoli. Dobbiamo veramente chiudere. Grazie Andrea Orlando, vice segretario del PD. Buona giornata. La sigla ci porta via. Ci sentiamo lunedì. Ciao.